Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sargante, il traghettatore, buongiorno a tutti. Domani, 25 marzo, domenica, al Grillo Parlante di Roma, la cooperativa sociale Abecedario fa un'iniziativa molto curiosa, divertente, anche, come dire, golosa. Mette a disposizione i propri chef e camerieri e offre una selezione di piatti che sono legati da un ingrediente comune, che è la solidarietà. Il ricavato di questo pranzo collettivo andrà infatti a Rider Italia Onlus, che è un'associazione che offre assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e alle persone non autosufficienti. Parliamo adesso di lavoro, ovviamente una nota dolente, anche se qualche segnale almeno all'apparenza arriva. Siamo collegati con l'amministratore delegato di Randstad, Marco Ceresa, buongiorno. Buongiorno. Non per parlare di lavoro, ma per parlare di aziende, perché voi, lei è, come dire, fautore di un'iniziativa che è Randstad Award, che premia le aziende che hanno una maggiore attrattività sui lavoratori italiani. Seconda edizione, dottor Ceresa. Esatto, questa in realtà è una ricerca che facciamo in diversi paesi europei e va proprio a misurare quella che è l'attrattività che le aziende hanno nei confronti dei lavoratori. Quest'anno avete anche premiato, ovvio, avete fatto questa classifica, immaginiamo sulla base di interviste telefoniche, così? Sì, abbiamo fatto praticamente un sondaggio su 8.000 persone, per cui sono tante. Sono tante, sono tante, tra i 18 e i 65 anni, e abbiamo chiesto a loro praticamente cos'è importante per te quando scegli un datore di lavoro e quali sono i datori di lavoro in cui ti piacerebbe lavorare. La risposta è abbastanza singolare per certi aspetti, perché leggo, poi lascio a lei il privilegio di dire il secondo, che è Ferrero, che ha totalizzato il 69% dei consensi. Gli altri poi sono? Ferrari e poi Thales Alenia Space. Quali sono i criteri che sono stati valutati maggiormente? Quindi questo risponderebbe poi alla domanda su come mai proprio Ferrero. Credo che in questo momento le persone stiano cercando solidità, sicurezza, e Ferrero probabilmente comunica questo, comunica sicurezza, solidità. Tradizione, effettivamente un'azienda, come dire, che esiste da sempre. E Alenia Space forse invece la visione, probabilmente le tecnologie, chi lo sa? È un po' più internazionale, poi fa anche dei prodotti forse interessanti, no? Per cui credo che sia questo il aspetto tecnologico. Sì. Voi avete intrapreso questa iniziativa perché, essendo una società che si occupa di lavoro, quindi avrete voluto premiare un po' le aziende che hanno questa capacità di essere attrattive. Sì, ma più che premiarle abbiamo voluto capire e conoscere quali sono le aziende, perché noi riceviamo tanti candidati, ma questi candidati a volte hanno delle idee chiare in quale azienda vogliono lavorare e in quale non lavorare. Per cui grazie a questa ricerca noi adesso sappiamo in quale azienda le persone lavorano con più motivazione e accettano il lavoro con più facilità. Perciò al di là del premio è importante per noi sapere dove offrire il lavoro alle persone. Bene, grazie, complimenti per l'iniziativa, alla prossima, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Chiudiamo ricordandovi o annunciandovi, per chi non lo sapesse, che la settimana prossima, da lunedì, è la settimana dell'ora della Terra. È un evento globale che riguarda tutto il mondo, promosso dal WWF, contro il cambiamento climatico e per il futuro sostenibile. C'è un'iniziativa a cui aderiscono molte aziende. Vi segnaliamo che in Italia ha aderito Sisco Italia, che si è impegnata a ridurre al minimo gli spostamenti per lavoro dei suoi dipendenti, grazie soprattutto alla vita comunicazione. Sarà una settimana, come dire, statica per chi lavora in Sisco. È tutto per oggi, grazie di averci seguito. Se andate su Facebook alla pagina Ferrybot-Radio24, cliccate su Mi piace. In redazione, come al solito, Anita Panizza e Gian Gabriel Lombardo, in regia Roberto Scaltritti. Alla prossima.